cazzo, ma che cazzo però. Hai visto, ecco. E poco fa ci stavo dando quattro matti, ho capito. Quei quattro matti del baracchino solo, capito? Per fare un confronto, io quando ti sto arrivando a te. Parla, parla. 1, 2, 3, 4, 5. Se no, 10, vale 9, 15. E tu sei 9, 20. E a te, sa. A me 9,20 piano piano piano. K, diglielo, va bene. Questo qui se permetti con gara si sa tornecco. Non viene. Cosa stai usando? Il mitico Galaxy Saturn Echo. Cazzo, mitico Galaxy. L'ho avuto l'apparato lì, l'ho avuto. Un signore, vabbè, diciamo come base di un apparato, diciamo, bene, ma anche bene. Però lo stanno attuando. Però? Lo stanno attuando. No, non ho capito, stai io facendo strana con la base. Ti ho detto che ormai, lo stai martoriando. Perché martoriando? Perché non sto facendo pompare. No, non sto facendo pompare niente. Mettilo 5 watt. Va. No, tieni la portata solo schiacciata. Però delle volte influisce anche il tipo timbro di voce, oppure può provare a giocare, a cambiare un po' le capsule, tutto lì, capito? Sono questi giochetti qua, puoi fare, ok? Opa. Degli abbinamenti buoni, normale, ho adattato una capsula che è una bomba, e se io non attacco questo microfono amplificante e metto l'eco dell'apparecchio sembra amplificato lo stesso. Lo so, accorgimenti, sono degli accorgimenti che insomma, giusto per migliorare la modulazione, che poi secondo me, non lo so, secondo me non è tanto, uno può uscire anche con 4-5 watt, è un buon amplificato per spingere, tutto lì, capito? Sì, infatti, non interessa la potenza, io ho provato a uscire con un watt addirittura, con questo apparecchio ci sentivamo tranquillamente, parlevamo, dice già, ma mi arrivi sempre bene. Esatto, capito, tutto lì, ci puoi attaccare, non so, 50-100 watt, che poi se metti 50 watt, magari ti distorce pure, perché il watt esatto, sappiamo benissimo che ti distorce. Ma ora di cercare di accordare, di giocare sul make in, equilibrare, insomma, e tante cose ci sono, vai, tutto lì. No, ma adesso ultimamente stanno facendo dei lineari con i finali a mosse, cioè, quindi non distorcono per nulla, hanno una radio perfetta, come se non avessi attaccato nulla, ti danno più potenza, però la radio se rimane sempre buona. E quelli con i finali a mosse sono i migliori. Capito. Va bene, ok. Dopo va, Gianni, mi sento un attimino, magari se ci sei, se ti apre tardi, va bene, sentiamo, sento che ti stai seguendo qualche cosa di molto, vero? Positivo, non c'è quando qua il MotoGP, tutto lì. Appagato, sì, ho pensato che fosse quello, infatti. Andiamo, ci sentiamo, a me la moto mi piace guidarla, non mi piace vedere, mi piace guidare. Lo so, ma è giusto fatto la così, c'è stato questo valentino, che fa scintillo, ok, ciao, ci sentiamo.